senza di peso e gravità. Gravità di un cuore pesante e sentire il richiamo gelido della sua dente. Dama oscura, un giorno tutto finirà. Quasi volerlo, perché vorrei essere leggero ancora. Un giorno tutto finirà. Presenza di peso e gravità, gravità di tempo scaduto e accettare il richiamo, gelido come perdente, sfinito dalla paura. Tutto passerà, e quasi cercarlo, ma come per essere leggero ancora. Un giorno tutto passerà, e quasi cercarlo, ma come per essere leggero ancora. Leggerezza che si perdeva in fondo al mare.